motore. Partito. Azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto! I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Ebbene sì, quando inizia Movieland naturalmente ci se ne accorge. Ebbene sì, Emanuele un altro sabato insieme a voi dalle 18 alle 19 vi accompagnerà tra le note di bellissime canzoni che hanno fatto la storia del cinema, ma anche tra le notizie cinematografiche di Hollywood, di casa nostra, eccetera eccetera, per tenervi sempre aggiornati in questo bel programma di approfondimento cinematografico che è Movieland, che va in onda ogni sabato dalle 18 alle 19 sulla vostra emittente preferita. Noi però vogliamo andare avanti perché ci piace così. Vi ricordo che per seguire da vicino le nostre mosse potete andare sulla nostra pagina di Facebook appunto cercate Movieland Italia, quella è la nostra pagina di Facebook, mettete un bel mi piace e sarete in contatto con noi per tutte le novità che settimana dopo settimana vi porteremo. Ah, ebbene sì. Chi sono questi qua che arrivano? Ma senti qua che schitarrata, bella bella bella. Alicia Keys, Jack White, con la colonna sonora di Quantum of Solace, Another Day to Die. life sacrifice for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey turning on a dime. Another way to die. Quanti modi ci sono per morire? Ma ce ne sono un'infinità. Dall'incidente più diciamo più grave al banalissimo incidente domestico. È quello che è occorso e che poteva occorrere a Lando Buzzanca. Lando Buzzanca, io lo voglio salutare dalle frequenze della nostra radio, perché Lando Buzzanca è un grandissimo attore italiano che ha fatto veramente la storia del cinema italiano. Si è sentito poco bene, ha avuto un malore nella notte di mercoledì, è stato portato di urgenza all'ospedale, adesso è completamente fuori pericolo. Era stato detto dai giornalisti che poteva trattarsi anche di un tentativo di suicidio. Prima di tutto, Lando Buzzanca non è persona a suicidarsi, e poi comunque il figlio Massimiliano Buzzanca ha chiarito che il padre si è sentito poco bene per stress lavorativo, sta infatti girando Il Restauratore 2 a Roma, per varie incavolature che una persona di temperamento come Buzzanca si può prendere ogni giorno, e quindi vabbè, è successo quello che è successo. Comunque adesso è fuori pericolo, quindi per tutti i fan del grande leone, il leone è ancora in circolazione, come ha detto il figlio. Un altro grande leone invece, questa volta oltreoceano. Sto parlando di Dustin Hoffman. Infatti l'attore premio Oscar si è sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. La notizia confermata della sua portavoce, che però assicura tutti sullo stato di salute appunto dell'attore. Dustin Hoffman si sente benissimo ed è in buona salute, ha dichiarato la portavoce dell'attore premio Oscar, aggiungendo però che nei prossimi mesi dovrà sottoporsi ai normali controlli per accertare che il tumore non si manifesti nuovamente. La notizia dell'operazione di Hoffman giunge pochi giorni dopo il suo compleanno. Nato a Los Angeles nel 1937, infatti l'attore ha compiuto 76 anni proprio l'8 di agosto, due giorni fa. E benissimo, allora auguri anche di pronta guarigione sia a Dustin che a Lando. Un saluto a tutti e due da Movieland, naturalmente. E vai, adesso andiamo con un po' di ritmo latino. Gloria Estefan, Conga, da Terapie Pallottole del 99. quando ho scelto questa canzone ero sicuro che facesse parte della colonna sonora di Beetlejuice oppure di The Mask, e invece no, faceva parte della colonna sonora di Terapia e Pallottole, un bellissimo film, una bella commedia americana con Robert De Niro e Billy Crystal del 1999. Ci siamo ascoltati anche la bravissima Gloria Estefan, ma adesso passiamo a un'altra canzone più recente, sì, del 2013, infatti è il film nella quale colonna sonora era inserita, un film di Gabriele Muccino, l'ultimo per l'appunto, Quello che so sull'amore. Questa, quella che segue, è Funnel of Love dei Terraplane Sun, che io vi lascio ascoltare ricordandovi che siete su Movieland ogni sabato dalle 18 alle 19 sulla vostra radio preferita insieme ad Emanuele. Che bei ritmi e che belle canzoncine dal ritmo estivo, ci vuole proprio in questo caldo agosto, 10 di agosto, vabbè, in certi punti d'Italia però è iniziato a piovere, e qui quando piove d'estate piove tantissimo. Va bene, chi è più al fresco sta meglio, chi è più nelle temperature torride starà un po' peggio. Io saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando nello stivale ma anche fuori Italia, perché essendo su una web radio naturalmente il nostro ascolto potenziale è globale, quindi a tutti gli ascoltatori del mondo che stanno ascoltando Movieland, rimanete incollati là perché adesso c'è una bella canzone, dopo c'è un'intervista, una bella e una lunga intervista a un grandissimo direttore della fotografia, quindi mi raccomando non mancate assolutamente. E ancora buon ascolto insieme a Movieland. Movieland, il cinema alla radio. Stai ascoltando Movieland, il cinema alla radio. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Splashing around. told her we'd still be friends. Then we made our true love vow. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped at seams, but il cinema alla radio. Oggi a Movieland vogliamo parlare di fotografia cinematografica e lo facciamo sicuramente con uno dei migliori direttori della fotografia italiani presenti adesso nel panorama cinematografico nazionale. Vi sto parlando di un direttore della fotografia che ha vinto ben 6 Davide di Donatello, 4 Nastri d'Argento e tantissimi altri premi. Sto parlando di Luca Bigazzi. Lo abbiamo insieme a noi in con connessione telematica. Ciao Luca. Buongiorno a tutti. Ciao. Allora, ti ho fatto una breve presentazione, però è vero, è tutto vero. I premi sono veri, i film sono tanti, le collaborazioni sono tante. Hai iniziato a lavorare come assistente nel 77, io avevo 3 anni, e poi nell'83 è arrivato il primo film. Però raccontaci, qual è il mestiere del direttore della fotografia? Cosa fa il direttore della fotografia in un film? Il direttore della fotografia mette, diciamo, le luci, illumina la scena e, d'accordo con il regista, diciamo, inquadra anche, sceglie le ottiche insieme al regista, e in alcuni casi, come nel mio, fa anche l'operatore di macchina, cioè io faccio anche l'operatore, non metto solo le luci, perché penso che alla fine sia molto importante anche il contatto con gli attori, e quindi stare in macchina mi permette di dialogare a volte anche non verbalmente con loro, e questo è un aspetto molto importante. Poi dicevi, sì, forse ho lavorato troppo, che ora si smettere. È iniziato in maniera molto strana, perché negli anni del liceo ero al liceo con Silvio Soldini, nella stessa classe. Ah. E poi ho iniziato a fare l'editore regista in pubblicità, cosa che facevo malissimo e che detestavo, perché ero appassionato di cinema e non di pubblicità e televisione. Certo. E quindi per un po' di anni mi sono mantenuto facendo questo lavoro. Silvio invece è andato a fare la New York University, uh-huh, scuola di cinema bellissima, e quando è tornato in Italia, era l'82, abbiamo deciso lui mi ha chiesto di lavorare insieme, facendo io il direttore della fotografia, ma io ho detto, ma io non ho mai fatto la fotografia. E ci siamo prodotti invece un piccolo film in bianco e nero, che doveva essere un cortometraggio, invece è diventato un lungo, e in 16 mm, si chiama Paesaggio con figure. Il film era bello perché Silvio è molto bravo, io non ho fatto altro che aiutarlo, e certo, così stranamente sono diventato direttore della fotografia. Così è cominciata, senza scuola, senza una preparazione, come dire, certo, specifica per fare il direttore della fotografia. È cominciata con molto impegno, molta passione, e soprattutto molta passione per il cinema visto. È stato strano, perché poi era un momento in cui arrivavano pellicole più sensibili, macchine più leggere, cioè si poteva fare un cinema indipendente a basso costo, con, certo, poche luci. E così forse per questo abbiamo osato. Da quel punto di vista la tecnologia ha veramente fatto dei grossissimi passi da gigante in 30 anni. Che approccio hai verso le nuove tecnologie, verso il digitale? L'hai usato, lo usi? Guarda, io ho sempre lavorato un po' in digitale, soprattutto per i documentari. Francamente non ho nessun rimpianto per la pellicola, nel senso che negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni, lavoro quasi sempre in digitale, mi trovo benissimo, trovo che sia una necessaria, inevitabile evoluzione della tecnica, trovo che sia più leggero, più versatile, più economico, penso che dia più spazio alla sperimentazione. Non ho nessun rimpianto estetizzante per la pellicola, poi penso che, insomma, non si può non si può essere così conservatori. L'atteggiamento romantico, ma com'era bella la pellicola, la grana qua e là, insomma è un certo. Atteggiamento conservatore, monopolista e reazionario, che è equivalente a quello che ho incontrato io quando ho iniziato questo lavoro, quando mi si diceva ma la pellicola sensibile, tutta quella grana, era così, è così bella la pellicola senza grana, ho capito, ma sarà anche bella, ma se questo mi permette di girare con poche luci, certo, e con più velocità e con più economicità, io non ho nessun formalismo da difendere antiquato. E così altrettanto col digitale, insomma, io oltretutto è anche una enorme possibilità di esperienza per i giovani, insomma, certo. Ai miei tempi la pellicola costava tantissimo, bisognava essere, era difficile prodursi un film, invece adesso è molto più possibile. Paradossalmente, mentre si aprono spazi di produzione più ampi, si restringono invece i luoghi in cui questi prodotti si possono far vedere. Assistiamo con orrore alla chiusura di cinema importanti, storici, nei centri delle città e non solo. Assistiamo a una preoccupante individualizzazione della fruizione del cinema, che è una contraddizione insopportabile, certo. Perché il cinema è bello ed è importante ed è una forma d'arte, perché è una forma d'arte che ha bisogno di una ricezione collettiva, non individuale. Quindi vedere i film da soli col proprio computer, nei telefonini, insomma, questa è un'aberrazione che porta, questa sì, a snaturare il senso del cinema, non girare in digitale o in pellicola. Passiamo un attimo a parlare un po' del tuo palmarès. Hai vinto tanti premi, hai vinto Davide Donatello, hai vinto Nastri d'Argento. Cosa ne pensi di questi concorsi? Ma sai, io non so, io sono chiaramente felice quando mi danno un premio, però non penso che questo sia determinante. Insomma, penso che sono felice perché generalmente, se tu guardi tutti i film per cui sono stato premiato, sono i film che sono andati bene, quindi insomma sono felice, certo. Perché questo significa che il film funziona, non è tanto il mio contributo si misura più che sui premi col rapporto di fedeltà e di continuità con i registi, insomma. Certo. Diciamo, questo è il premio più ambito, non è il riconoscimento, poi non so bene dove metterli questi premi, sotto i divani, però insomma, no, infatti, hai ragione, questo è molto importante, perché uno può fare anche 100 film con 100 registi diversi, però vabbè, ha fatto tanti film ma magari non ha instaurato grandi rapporti. Tu invece sei uno che ripete, hai stretto da qualche anno. Guarda, tornando al discorso dei premi, io mi ricordo, ho dei film a cui tengo moltissimo, in cui penso, ogni tanto penso, molto raramente, di aver fatto un buon lavoro, che non hanno avuto nessun premio, solo perché sono dei film più difficili, forse meno famosi, meno di successo, però in cui sento di aver lavorato meglio, e questi non hanno avuto premi, quindi insomma il valore dei premi è molto molto relativo. Qual è tra tutti i tuoi film, diciamo, quelli che hai fatto, il preferito, quello che secondo te ti è venuto appunto meglio? Ma vorrei dire il prossimo, no, nel senso che non so, non ho, come, sono come i figli, non è che riesci bene a decidere chi è il preferito. Diciamo che fra tutti, oltre ai primi fatti con Silvio, non posso non ricordare L'America di Gianni Amelio, che è stata una lavorazione, io ero molto giovane, avevo 32 anni quando abbiamo cominciato il film, e Gianni è stato piuttosto eroico a decidere chi poteva fare il direttore della fotografia del suo film. E è stata una lavorazione incredibilmente avventurosa, perché è durata 21 settimane. Mamma mia. I film in genere durano tra i 5, le 8, 10 settimane. Certo. Siamo stati 21 settimane in Albania, e questa è stata un'esperienza incredibile, non solo cinematografica ma anche umana. Usciamo dall'ambito nazionale. Tu hai mai lavorato all'estero? Dunque, all'estero ricevo molte proposte e confesserò, cerco di rifiutarle, perché prima di tutto io penso che ho la speranza, ho l'idea che lavorare nel nostro paese possa servire a qualcosa, non solo alla troupe che fedelmente lavora con me, ma penso anche che possa servire allo spettatore. Quindi insomma, io cerco di fare il mio lavoro nel nostro paese e cerco di farlo meglio possibile, cerco di raccontare questo paese, cerco di aiutare i registi a raccontare questo paese, spero di fare in modo che questo paese sia leggermente migliore di quello che è, e ogni tanto sento che ci riusciamo. I film all'estero, finché posso lavorare qua, li lascio a data da destinarsi. Se va avanti così, prima o poi, certo, bisognerà anche accettare, ma per il momento, per fortuna, no. se va avanti così, mi spiego meglio, in assenza di una seria politica di sostegno al cinema e al cinema, produzione di cinema e distribuzione di cinema, io credo che difficilmente in questo paese si potrà continuare a fare questo lavoro, nel senso che non si può pensare che questo lavoro sia un lavoro per appassionati solamente, così come non si può pensare che sia un lavoro per ricchi. L'idea che nei set cinematografici sempre più spesso ci siano dei volontari non pagati è una realtà che mi indigna. La produzione di cinema, così come la produzione di teatro e di cultura, è un patrimonio del paese e questo patrimonio va riconosciuto e va sostenuto e va aiutato. Nel 2012 è stato scritto un libro, La luce necessaria. Praticamente ti è stata fatta un'intervista e questa intervista, da questa intervista è nato un libro disponibile oltretutto su Amazon e per i Kindle. Io infatti me ne sono preso, lo leggerò durante le vacanze. Parlaci un poco di questo progetto, di questo libro. Ma guarda, è stata una cosa strana perché io sono, insomma, Alberto Spadafora e Silvia Tarquini mi hanno chiesto di fare questo libro. Io ho detto, ma vediamo, insomma, cioè, alla fine è diventata un'intervista di 4 giorni. Certo. E quindi niente, è un'intervista lunghissima, corredata da alcune foto belle, scattate sul set. È un'intervista che, insomma, spero che possa servire soprattutto ai giovani, agli studenti di cinema, a chi vuole intraprendere questo lavoro. È un'intervista in cui cerco e spero di sfatare alcune mitologie legate alla professione che faccio. Su internet e sui siti diciamo che parlano di cinema indipendente, sui forum eccetera, si moltiplicano sempre più le richieste di collaborazioni pressoché gratuite per cortometraggi low budget o addirittura no budget. Tu come vedi, diciamo, questo tipo di palestra che fanno i giovani registi? Tu parteciperesti mai a un progetto del genere? Beh, io ho fatto ancora e faccio ancora dei film a zero budget, nel senso che se penso che questi film abbiano un interesse politico o formale ragionevole, sì, perché no, lo faccio, l'ho fatto recentemente. Abbiamo fatto un cortometraggio a Milano con Macao, che è un centro sociale per le arti e per il culturale, e adesso è in fase di montaggio, si chiama Open, che spero che sarà ultimato a settembre, ottobre, però insomma sì, perché no, io non ho in sé l'idea del lavoro gratuito contro cui mi scagliavo prima, è un'idea del lavoro gratuito in produzioni ufficiali, cioè produzioni che hanno un budget più o meno consistente. Non trovo che sia inaccettabile che chiedano del lavoro gratuito. Una cosa diversa è la produzione indipendente, il primo film appunto del 1983, Paesaggio con figure, che abbiamo fatto con Silvio Soldini, ce lo siamo prodotto e chiaramente lavoravamo gratis, quindi io di per sé non è quello il problema. Il problema quando è quando la scusa della precarietà giovanile viene utilizzata come forma di sfruttamento, ecco, di fronte a questo io mi indigno, certamente. Veramente in termini legislativi bisognerebbe mettere un freno, e invece viene anzi agevolato dal punto di vista legislativo. Questo è uno scandalo, cioè l'idea dello stage, l'idea della precarietà fatta norma fa sì che questo lavoro diventi e possa diventare un lavoro per ricchi, e se questo lavoro diventa un lavoro per ricchi è un lavoro che perde la sua ragione d'essere e soprattutto la sua linfa vitale. Benissimo, io ringrazio Luca Bigazzi che è stato con noi. Questa conversazione per me si potrebbe allungare per 4 giorni, gli stessi che per i quali hai fatto il libro. Veramente è un piacere parlare con te, un grande maestro che però ha una grande umiltà. Ti ringrazio molto. Io sono felice che esista ancora una trasmissione di cinema e che qualcuno ancora ami il cinema in questo paese. Speriamo che resistiate. Grazie. Un saluto, ciao. Ciao, grazie, grazie. Ciao. Moviland, il cinema alla radio. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Con filmapp.com. Il corpo umano è composto per circa il 60% d'acqua. In alcuni di noi un po' di più. Il vincitore della gara di surf di Sydney, Jimmy Cullen! Ubriachiamoci! Sì! Mi sembra impossibile che tu riesca a vivere così. Fotografare i surfisti non sembra un lavoro giusto. Non dirlo a nessuno. Ho avuto un'idea. Ed è legale. Visto che meraviglia. Ci sa fare. Quando c'è schiuma si surfa e quando è piatto lavoriamo. Non riuscivo a togliermi gli occhi di dosso. Stavo cercando di capire se sei mio fratello o mio padre. È tutto a posto con Jimmy. Ho tenuto d'occhio i tuoi amici hippie e adesso farò lo stesso con voi. Non hanno niente contro di noi, lo sai anche tu. Ci sono onde sinistre che si incurvano fino a formare tubi giganti. Solo pochissimi hanno fatto surf laggiù. Solo raggiungerla sembra impossibile. Se Dio facesse surf, quello sarebbe il suo paradiso. Non sembro nemmeno io. È molto di più di te. Ho tutto sotto controllo, credi in me. Tu e Jimmy siete come lo Ying e lo Yang. Entrambi fate schifo senza l'altro. che il difficile non è cavalcarle, semmai è prenderle. Vai. Ci adattiamo, sopravviviamo, andiamo avanti. Stai ascoltando Movieland, il cinema alla radio. È stato un onore conoscere Wolverine. Non sono più Wolverine. Il mio capo sta morendo. Vuole ringraziarti per avergli salvato la vita anni fa. Un dono pari alla vita che mi hai dato. Io posso porre fine alla tua eternità. Posso renderti mortale. Ciò che mi hanno fatto, ciò che sono, non si può cambiare. Non esserne sicuro. Non guarisco come prima. No! Che mi succede? Wolverine, l'immortale. Dal 25 luglio al cinema, anche in 3D. Stanotte permetterà alle persone di sfogare l'astio e l'aggressività che normalmente reprimono. Perché voi non partecipate? Perché non ne sentiamo il bisogno. Saremo al sicuro come sempre, non preoccupatevi, va bene? E noi entreremo. James, non possono entrare, vero? Questa è casa nostra. Chiunque cerchi di entrare, tu gli spari senza esitazioni. La notte del giudizio. Ricorda tutto il bene che porta allo sfogo, ok? Dal 1 agosto al cinema. Quest'estate torneranno per finire. Pronto a rifarlo? Oh, sì! Quello che hanno iniziato. Questo non è un fumetto. Mio padre era pronto a qualunque cosa. E tu? Anch'io. È coraggioso. Cattivo. Voglio uccidere chi fa con le mie belle manine. E un po' aggressivo. E voi chi diavolo siete? Noi siamo i buoni. Sfanzi. È un cucciolone, adora le palle. Kick-Ass 2, da giovedì 15 agosto al cinema. Movieland. Il cinema alla radio. La terra è un luogo della mente. C'era un fiume e ora non c'è niente. C'è uno scoglio che si è trasformato in pilastro di cemento armato. Sotto il cielo che non ride mai, mi aspetterai cantando. Onda Calabra, qualunque mente, se c'è Pilo non ci manca proprio niente. Calabra, spessatamente, se ti picchia ti consuma totalmente. Onda Calabra, infattamente, se ti picchi uno rimane quasi niente. Onda Calabra, qualunque mente, se c'è Pilo non ci manca proprio niente. Questa terra è un luogo assai accogliente, io di tasse pago poco niente. Se ti senti un tipo esuberante, costruisci abusivamente. Sotto un cielo che non ride mai, mi aspetterai cantando. Onda Calabra, spessatamente, se ti picchi uno rimane quasi niente. Onda Calabra, qualunque mente, vieni qui vicino a me pagabilmente. E se c'è pelo per tutti non ci manca proprio niente. Benissimo, lui era Antonio Albanese, un grandissimo comico italiano. Questo era il film appunto di qualche anno fa, Qualunque mente, questa è la colonna sonora, Onda Calabra. Benissimo, noi abbiamo appena ascoltato i trailer dei film in sala in collaborazione con Filmup, il portale del cinema. Quindi io vi invito per questo fine settimana di andarvi a passare una bella serata al cinema, al fresco dell'aria condizionata. Infatti in sala c'è Drift, Cavalca all'onda, La notte del giudizio, Wolverine l'immortale e Kick-Ass 2. Quindi mi raccomando, perché il cinema ha bisogno di voi e tutti noi abbiamo bisogno del cinema. Andiamo avanti? Ma sì, andiamo avanti. Oggi abbiamo fatto tante chiacchiere, vogliamo dare spazio alla musica. Chi arriva? Ah, sono i Green Day, The Forgotten, da Twilight. Buon ascolto su Movieland con Emanuele fino alle 20. Alle 19. Where in the world's the forgotten? They're lost inside your memory. You're dragging on, your heart's been broken. As we all go down in history. Where in the world did the time go? It's where your spirit seems to roam, like losing faith to our abandon, or an empty hallway from a broken home. Well, don't look away of a bad dream. Well, don't look away. Sometimes you're better lost than to be seen. Accendini in alto, mani in alto, questa non è una rapina, anzi le mani utilizzatele per abbracciare la vostra lei o il vostro lui e fate un bel lento accompagnati da questa bellissima canzone dei Green Day, The Forgotten, direttamente da Twilight Breaking Down, la saga dei vampirantropi. Vabbè, io devo confessare la mia ignoranza, non ne ho visto neanche uno di Twilight, ma rimedierò, andrò a vedermeli, prenderò i DVD, insomma in qualche modo farò e mi aggiornerò. ragazzi, bisogna stare aggiornati. Benissimo, allora The Green Day con The Forgotten, ma passiamo alla prossima. Io vi ricordo intanto che per contattarci o per sapere che cosa succederà nella prossima puntata di Movieland il prossimo sabato, eccetera eccetera, c'è la pagina di Facebook che è Movieland Italia. Quindi basta che andate su Facebook, entrate e cercate Movieland Italia, mettete mi piace sulla pagina e potete commentare i post, le notizie, eccetera eccetera, tutto quello che mettiamo via via. Quindi non dimenticatevelo. Se invece poi volete contattarci più direttamente, c'è a disposizione la mail, che è movieland.radio@gmail.com. E intanto nel sottofondo è partita la prossima. Ebbene sì, questa è una bella canzone italiana. La Disney, quando escono i grandi film, fa fare le versioni italiane delle canzoni. E questa la riconosciamo, è la bellissima e bravissima Ivana Spagna che canta Il cerchio della vita per Il Re Leone del 1994. Che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi che sta siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e perché non esistono più, è una giostra che fa. Qualcuno che è sempre con noi. E brava la nostra Ivana Spagna con questa bella Il cerchio della vita, la canzone, il tema portante del Re Leone del 1994 di Disney. Benissimo, noi siamo arrivati alla fine anche questa settimana, ci manca solamente l'ultima canzone e soprattutto l'ultima notizia. Sì, voglio fare un po' di gossip hollywoodiano, un po' di gossip hollywoodian virtuale, possiamo dire, perché tutto si è svolto su Twitter. I Mercenari 3, infatti, dentro Harrison Ford, fuori Bruce Willis, perché avido e pigro secondo Stallone. Tira una certa rietta, infatti, in zona Mercenari, e se la vita vera fosse come il film della saga, ne vedremo delle belle. Bruce Willis, Charge nei precedenti capitoli dei Mercenari, è ufficialmente fuori dal prossimo capitolo della saga, in uscita appena tra un anno e in piena fase di casting, almeno stando agli ultimi rumors. E per un attore che esce, ce n'è un altro che entra. Harrison Ford entra a far parte della squadra, lo ha annunciato Sylvester Stallone via Twitter, in un modo così entusiastico da sembrare un po' sospetto. Fuori Willis, dentro Harrison Ford, grande notizia, ho aspettato anni per questo, avrebbe scritto Sly, che neanche 5 minuti dopo avrebbe inoltre aggiunto, sempre su Twitter, avido e pigro, una formula certa per il fallimento di una carriera. Cosa sia successo tra i due attori non ci è dato sapere. Ovviamente la rete si è già divisa tra chi vorrebbe qualche spiegazione in più e chi invece nota la poca delicatezza di Stallone. Beh sì, in effetti un pochino più di tatto magari ci voleva. Prima o poi scopriremo come sono andate le cose e vi terremo naturalmente aggiornati. Nel frattempo volevo ricordare che I Mercenari 3 sarà diretto da Patrick Hughes e vedrà Mel Gibson nei panni del cattivo antagonista. La pellicola uscirà in Italia il 28 agosto del 2014, tra un anno e 15 giorni, quindi c'è il tempo per chiarire un po' i fatti. Benissimo, io vi saluto, vi ricordo che avete ascoltato Movieland con Emanuele dalle 18 alle 19 sulla vostra web radio preferita. Intanto noi chiudiamo con questa bella canzone di Jim Carrey da The Mask del 1994, Cuban Pete. Buon ascolto su Movieland e sulla vostra web radio preferita. Alla prossima settimana. Call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. The señoritas, they sing and they swing with their rompero. It's very nice, so full of fight. And when they're dancing, they bring a happy ring that I can't. And I teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana. Si, senorita, I know that you would like a chicky boom chick. It's very nice, so full of spice. Oh, I place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Cinema alla radio.